TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Presto un tavolo sulla riapertura della provinciale 14 dopo l'alluvione di novembre nel Collio. Due strutture residenziali per chi soffre di disturbi alimentari presto attive a Camino al Tagliamento e Roveredo. Il terremoto del 76 al centro di un convegno dell'Arcidiocesi di Udine e dell'Assemblea della Filologica. Omaggio di Pordenone a Chalandon, lo scrittore francese protagonista di Dedica, il sigillo della città. L'Udinese battuta dalla Juventus per 1-0, gol di Boga nella ripresa, l'Udinese spreca l'occasione pareggio. Pallacanestro, vince Trieste, perde Udine. Biathlon, Lisa Vittozzi vince nell'inseguimento in Coppa del Mondo. Buongiorno e buona domenica da Rita Micoli. Subito uno sguardo al meteo. Il cielo è coperto sulla regione. Alle 7 c'erano 12 gradi a Trieste e a Udine, 11 gradi a Gorizia e Pordenone. A Tolmezzo 4 gradi, a Tarvisio 3 gradi, a Forni di Sopra e a Sappada 0. Sul Monte Lussari e sul Monte Zoncolano un grado sotto zero, sulla costa a grado 13 gradi, 12 a Lignano. Ora le previsioni dell'ARPA: al mattino cielo coperto con precipitazioni abbondanti sulle zone occidentali e anche intense sulle prealpi carniche con rovesci, da deboli a moderate invece altrove. Nel pomeriggio cielo nuvoloso con rovesci sparsi, specie ad est, cessazione delle piogge in serata. Quota neve intorno a 1300-1500 metri. Si fanno ancora sentire le pesanti conseguenze dell'alluvione che ha colpito l'Isontino a novembre. A Dolegna del Collio la viabilità è ancora compromessa dalle frane, ma è stato programmato un incontro per giovedì prossimo tra il sindaco e l'assessore alla protezione civile. La riapertura della strada provinciale 14, chiusa dallo scorso novembre per la frana causata dall'alluvione che ha colpito l'Isontino, sarà al centro dell'incontro di giovedì prossimo tra l'assessore alla protezione civile Riccardo Riccardi, nella sede di Palmanova, con il sindaco di Dolegna del Collio e la sindaca di Prepotto. Gli interventi ora in studio da parte dell'ente di decentramento regionale, titolare della strada, potrebbero richiedere risorse di alcuni milioni di euro che verrebbero anticipate dalla protezione civile. Le difficoltà nei collegamenti si ripercuotono anche sugli affari delle attività della zona. Gli operatori del posto hanno già registrato cali significativi nei fatturati, al punto da organizzare una raccolta firme per richiedere una soluzione alla viabilità, come conferma il firmatario della petizione per la riapertura della provinciale 14, Massimo Londero. E vista la chiusura delle strade ci sono difficoltà a raggiungere le località naturalmente dedicate al turismo e anche le aziende naturalmente che si occupa di, soprattutto di produzione del vino. Conferma l'assessore all'attività produttiva di Dolegna del Collio, Milena Del Vecchio. Ci sarebbe bisogno anche di ristori economici che spero arriveranno al più presto e per ripartire tutti quanti. Si parla tanto di resilienza, ora è il momento di dimostrarlo. Dolegna del Collio, Maria Spezia, TGR, Friuli Venezia Giulia. Ancora infrastrutture e rilancio della ferrovia Pedemontana Gemona Pinzano Sacile rappresenta un'opportunità strategica per il Friuli, promuovendo un modello di mobilità sostenibile, di turismo lento e valorizzazione del territorio. Lo evidenzia il Passo Giusto, iniziativa editoriale del Patto per l'autonomia, che organizza per oggi un presidio a Pinzano al Tagliamento per raccogliere l'appello di persone, comunità e amministrazioni locali che da anni sollecitano il ripristino e l'adeguamento della linea ferroviaria. Appuntamento alle 10 nel parcheggio della primaria Carducci. E alla vigilia della giornata del Fiocchetto Lilla per la consapevolezza sui disturbi dell'alimentazione è stato presentato a Camino al Tagliamento il centro residenziale dedicato ai pazienti con questo tipo di problematiche. Presto una nuova struttura aprirà a Roveredo in Piano. Da zero a due nuove strutture residenziali, una per adolescenti, una per adulti, per stare accanto giorno e notte a chi soffre di disturbi della nutrizione e dell'alimentazione e ha più bisogno d'aiuto. Una notizia attesa da anni da associazioni e famiglie A Rovereto in Piano, nei locali dell'ex RSA chiuso a fine anno, nascerà il Centro Unico per i Disturbi Alimentari dell'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale. Qui dal 4 maggio saranno trasferiti il diurno e gli ambulatori. Nelle settimane successive, a delibere regionali pronte, si insedierà il centro residenziale psicoterapico e riabilitativo con 8 posti letto per minorenni e adolescenti fino a 21 anni d'età, il primo di questo tipo in regione. Dovrebbe iniziare ad accogliere i primi ospiti da 17 anni in su entro l'estate anche il primo centro regionale per i disturbi della nutrizione e alimentazione per adulti a Camino al Tagliamento. Lo visitiamo in anteprima. 12 posti letto in camere singole e doppie, dalla musicoterapia alla pet therapy per riprendere una quotidianità che faccia uscire dall'angoscia. Camino al Tagliamento, Lillo Montaltomonella, TGR Friuli Venezia Giulia. Aumentano i corsi di autodifesa e a frequentarli sono sempre più i giovanissimi. Siamo andati a Monfalcone. Baby gang, bullismo, maranza, la fenomenologia del disagio giovanile si evolve costantemente in articolazioni identitarie sempre più complesse, ma intanto aumentano le denunce per atti violenti, dalle percosse alle risse alle rapine, con punte che superano il più 50% nelle grandi città. Tra le motivazioni non solo stupefacenti, ma anche debolezza delle figure educative e una generica noia di vivere che spinge a crearsi un'aura di rispettabilità attraverso la violenza. A Monfalcone diversi ragazzi reagiscono a questi trend rivolgendosi al centro giovani per il corso di difesa personale. Gli istruttori sono Marco Frandolic, esperto in tecniche di controllo e neutralizzazione fisica, e Irena Semi, psicologa. Noi vogliamo dare ai ragazzi la capacità di capire, interpretare i primi segnali di pericolo per riuscire a gestire al meglio le emozioni e anche la situazione, per evitare di reagire con rabbia all'evento e avere poi delle conseguenze sia fisiche, morali e legali. Monfalcone, Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. Indagare lo spirito di comunità del Friuli del 76 e del 2026 per cogliere i valori di 50 anni fa e riscoprirli. Oggi è l'obiettivo del convegno Tessere Legami, secondo appuntamento organizzato dall'Arcidiocesi di Udine per riflettere sul sisma e sulla sua eredità. Tra gli ospiti la neuropsichiatra Silvana Cremaschi, l'ex assessore alla ricostruzione Roberto Dominici e il delegato episcopale Monsignor Ivan Bettuzzi. Alle 15:30 Teatro Monsignor Lavaroni ad Artegna. E la presentazione della nuova app per smartphone, il bilancio sociale dell'attività, l'approvazione del bilancio economico e l'illustrazione delle iniziative previste per le commemorazioni del 50° anniversario del terremoto sono i punti principali che saranno affrontati dall'Assemblea annuale della Filologica Friulana dalle 10:30 a Palazzo Mantica a Udine. Malattie invisibili, patologie spesso difficili da diagnosticare, ancora poco riconosciute a livello istituzionale, al centro di un incontro pubblico promosso oggi da Giovani e Futuro, Friuli Venezia Giulia, alle 10 nella biblioteca di Plaino di Pagnanco. E si chiude oggi a Trieste, nel centro congressi del Porto Vecchio, la 18esima edizione di Olio Capitale, salone dedicato agli extravergine di oliva tipici e di qualità. Tra gli incontri, quello dal titolo Città dell'Olio e Città del Vino, un percorso comune, momento di confronto tra istituzioni, associazioni e territori impegnati nella valorizzazione delle eccellenze agroalimentari, alle 14. E la LAV, Lega Antivivisezione, raccoglie anche oggi dalle 10 alle 13 nella sua sede di Via Donizetti a Trieste le firme per chiedere al governo un'IVA giusta per cibo e spese veterinarie, per prevenire situazioni di incuria e abbandoni legati alle difficoltà economiche dei proprietari. E ora la cultura e gli spettacoli a Pordenone, la manifestazione dedica quest'anno a per protagonista Soy Chalandon, reporter francese e poi autore di romanzi che ieri ha anche ricevuto il sigillo della città. La mia sfortuna è di avere vissuto una vita tale per cui io adoro, invidio gli scrittori che possono inventarle le loro storie, che inventano cavalieri, che inventano principesse. Io probabilmente sono invece uno scrittore al quale basta, per scrivere, andare a ricordare la sua infanzia. Comincia così a più di 50 anni il percorso di Sorge Chalandon, romanziere, dal bisogno di esprimere il dolore di un bambino balbuziente al quale le parole restano incastrate in gola. Il protagonista della 32esima edizione di Dedica si è presentato così al pubblico. Prima una lunga esperienza come reporter nei teatri di guerra. Le reporter, per me, le journaliste, n'a pas le droit de dire je. Il reporter non ha il diritto di dire io. Il romanziere, sì. Il reporter non ha il diritto di piangere lacrime, di essere triste, di essere adirato, di provare odio. Il romanziere sì. Dunque per me scrivere romanzi è il mio modo di esistere in quanto uomo. Pordenone, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Alcuni appuntamenti, le note di Chopin e Liszt caratterizzano l'appuntamento di oggi del cartellone di Eno Armonie, protagonista la pianista Michelle Candotti alle 18 a Villa di Topo Florio a Butrio, e omaggio a una delle più importanti figure del jazz e della musica improvvisata europea, il sudafricano Sean Bergin, lo propone questa sera il Jazz Club Monfalconese, il Carso in corso, in scena Daniele Dagaro, Tobias Delius ai sax e clarinetto, Enrico Terragnoli chitarra elettrica e podofono, Antonio Borghini contrabbasso, Cristiano Calcagnile alla batteria alle 21. E la giunta regionale ha approvato un bando per incentivare progetti che valorizzino la figura di Tina Modotti a 130 anni dalla nascita, un bando aperto sia al settore pubblico che privato. Le domande potranno essere presentate dal 31 marzo al 23 aprile. Il contributo concedibile varia da 10 a 25 mila euro. Sconfinare, germogliare, viaggio tra memorie presente nelle giovani famiglie di Carnia, il titolo della nuova mostra della fotografa Olderica da Pozzo, che fa parte del progetto omonimo avviato lo scorso anno dalla comunità di montagna della Carnia per documentare e raccontare la vita delle famiglie che hanno scelto di restare nei paesi della montagna. La mostra verrà inaugurata alle 16:30 alla Casa da Duga di Ravascletto, ce la presenta l'autrice Olderica da Pozzo. È un lavoro, un'indagine sulle famiglie giovani della Carnia. Praticamente sono 80 ritratti, poi ci sarà un piccolo video che è solo una piccola parte di tutte le interviste che ho fatto, ed è tutta la parte, diciamo, alta della Carnia. Interviste a persone giovani che hanno deciso di rimanere a vivere nei paesi della Carnia. Sono 80 famiglie più o meno giovani con bambini più o meno piccoli. Diciamo che il terzo libro, il primo libro era sui più vecchi della Carnia, il secondo era sui giovani e questo qua è un lavoro proprio sulle famiglie. E ho incontrato queste famiglie, chi in casa, chi sul luogo di lavoro, secondo insomma dei luoghi, partendo da Sappada fino praticamente al fondo valle, diciamo che è il paese più basso tra virgolette, Villa Santina. È comunque proprio un'indagine su chi è rimasto, su chi è venuto da fuori, anche un po' per raccontare come si vive in Carnia, le cose buone, le cose cattive. E lo sport adesso, l'Udinese battuta ieri dalla Juventus per 1-0, sentiamo com'è andata. La Juventus continua ad essere un'impresa impossibile per l'Udinese. Spalletti sente i fischi dalla curva dei tifosi friulani, ma esce con 3 punti fondamentali per la corsa Champions. Merito del talento di Yıldız, primo tempo dominato dalla vecchia signora con Boga e con Seisao, che non sfruttano le prime occasioni. Ne arrivano altre prima del gol partita di Boga al minuto 38. L'ispiratore è Yıldız, spostato a sinistra da falso 9, è subito decisivo. Ancora Juve prima dell'intervallo con Boga che colpisce il palo dopo la deviazione di Okoy e poi lo stesso portiere dell'Udinese salva su Cambiaso. Friulani troppo timidi, l'occasione per pareggiare sul piede di Echelle in campo ad inizio ripresa che calcia fuori. Un lampo, niente di più per la squadra di Runjajc che subisce l'aggressività della Juventus pericolosa con Yıldız che dalla corsia di sinistra manda in crisi a turno Zarraga ed Eizibue. Arriva il raddoppio di Conceição su assist del fantasista turco ma viene annullato dal VAR per posizione di fuorigioco di Kopp Meiners sulla traiettoria del pallone. In chiusura ancora Juve, Sprecona con Miretti prima dei minuti di recupero che fanno paura soltanto a Spalletti, perché l'Udinese non riesce ad essere mai pericolosa. Sentiamo il portiere della squadra friulana, Okoye. Abbiamo giocato contro la Juve e la Juve era troppo forte. Allora non è facile di giocare sì, contro una squadra così, ma eravamo preparati. Sappiamo che la Juve gioca così, allora sì, volevamo giocare un po' di counter attack, sì, ma un peccato. Udine, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Basket, la pallacanestro Trieste torna al successo al Pallarubini, biancorossi regolano Trento per 84-78. La Udine invece ottima per tre quarti del match, si fa rimontare dal Reyer Venezia che prende il largo davanti al pubblico di casa, la spunta per 101-94. Per la pallanuoto, la pallanuoto Trieste alla Bianchi batte il quinto ai rigori, finisce 21-20. Le Orchete in Grecia vincono con l'Ethnikos la gara 1 dei quarti di Eurocup. E infine la pallamano Trieste torna a vincere nella trasferta marchigiana sul campo della Publiese Chiaravalle 29-23 per i biancorossi. Gli sport invernali, ora il biathlon dopo l'oro olimpico di Milano. Cortina nell'inseguimento, Lisa Vittozzi è tornata alla vittoria anche in Coppa del Mondo. Vince in solitaria a Otepää in Estonia Lisa Vittozzi la gara nell'inseguimento, voltandosi sulla linea del traguardo quasi a dire: ma non c'è proprio nessuno dietro a me? E il nono successo in Coppa del Mondo, il secondo in stagione, quello che la sappadina riesce ad ottenere nella penultima tappa di Coppa del Mondo. Un'impresa dove sparare era veramente difficile, dimostrando di essere la biatleta più in forma al momento, soprattutto nel format che le ha consegnato l'oro olimpico. Nonostante i due errori al primo e all'ultimo poligono, la carabiniera ha dimostrato ancora una volta precisione e freddezza al tiro, mettendo dietro di sé la finlandese Mikkanen e la francese Jean Monod. Una condizione su cui pochi ci avrebbero scommesso dopo le non brillanti prestazioni della settimana scorsa in Finlandia. Sono contenta della mia gara, oggi sicuramente era molto difficile al poligono, però ho cercato di lottare per ogni colpo e sono contenta che alla fine ho fatto solo due errori perché le condizioni erano davvero difficili. Oggi si completa il programma estone con la staffetta mista che prenderà il via alle 14.40. Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia. Per lo sci alpino Lara Della Mea ci riprova nello slalom sulle nevi svedesi di Are dopo la deludente gara di ieri in gigante. Prima manche alle 9.30, alle 12.30 la seconda con diretta su Rai 2. Nella combinata nordica Oslo, tappa di Coppa del Mondo, il finanziere di Cercivento Alessandro Pittin disputerà l'ultima gara di una carriera ricca di risultati come il bronzo alle Olimpiadi di Vancouver nel 2010. Rassegna stampa. Ecco chi era nostro figlio, sì, forse si poteva salvare. Il titolo di apertura del Piccolo, i genitori del giocatore di basket travolto da un treno a Monfalcone. Matteo Babic ricordato al Palatrieste insieme a Tommaso Andreuzza, giovane operaio morto sul lavoro sempre a Monfalcone. Poi dopo la proroga concessa ai periti parla il legale della famiglia Resinovic. Non avremo mai giustizia, dice Lili, ragionevole. Indagini così lunghe. E poi una vicenda ancora da chiarire, quella di Roiano, scossa dal tentato rapimento di una bambina. Minori reati in aumento, Friuli Venezia Giulia, la regione in cui sono cresciuti di più in 10 anni, dice un rapporto di Save the Children, ed è l'apertura del Messaggero Veneto di Udine. Quella di Pordenone invece dice: verso la seconda moschea in città le comunità africane bengalesi separate da scogli linguistici che avevano portato a tensione, decisa la scissione, individuato un capannone a Roveredo in Piano. Su entrambe le edizioni la fotonotizia per la sconfitta dell'Udinese. Pieno shock, il gasolio sfiora i 2,40 euro al litro, apertura del Gazzettino sui dorsi del Friuli e di Pordenone. Qui c'è anche un titolo per l'eredità milionaria lasciata ai vicini, i parenti denunciano la vicenda di un anziano friulano trasferito da anni in Sicilia. Di spalla dal Messico a Tarvisio tornano le suore dopo 8 anni, nella fotonotizia il calcio. Zaniolo non punge, Boga sì, l'Udinese si arrende alla Juve. Sull'edizione della destra, Tagliamento invece un fiume di pace in centro, Centinaia al corteo no guerra. Poi l'omicidio Ruoso a caccia di sangue in ufficio e nell'auto. Mercoledì gli accertamenti nel negozio di Bedin, domani i funerali a Vigonovo. Rassegna stampa. Per i programmi alle 9.15, secondo episodio di Streghe Maledette, le loro storie tra Spilimbergo, Cormons, Porcia e Pordenone. La programmazione televisiva propone alle 9.15 il film Ilaria Alpi, il più crudele dei giorni, di Ferdinando Vicentini Orgnani. È tutto in regia Riccardo Stoici, in redazione Zeno Dubanda. Rita Micoli, grazie per l'ascolto, una buona domenica. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.